Noi in questo momento siamo in presidio davanti al tribunale di Via Farini, c'è un nutrito gruppo di persone, come potete immaginare siamo tutti svegliati abbastanza scioccati questa mattina con la notizia che un compagno al Parco Don Bosco è stato violentemente pestato dalla polizia. A quanto siamo riusciti a ricostruire, il compagno questa notte attorno alle 2 alle 3, proprio notte fonda, si trovava al Don Bosco, è stato assalito da 3 volanti che hanno cominciato a picchiarlo, gli hanno fatto 2 volte il taser che a quanto pare ora è in dotazione alle forze dell'ordine. Una volta che era a terra, questo compagno aveva già i polsi slogati dalle cariche che c'erano state 2 giorni fa, il tentativo di sgombero del Parco Don Bosco. Nonostante gli dicesse che aveva i polsi slogati, gli hanno torto i polsi, hanno continuato a picchiarlo, sebbene lui sputasse sangue, stesse soffocando, hanno continuato a picchiarlo, alla fine si è visto che c'era anche un manganello spezzato, quindi credo che l'abbiano picchiato proprio bello forte, hanno impedito ad una compagna medico di passare per vedere come stava il ragazzo e alla fine fortunatamente non sono riusciti ad ucciderlo perché ci è mancato veramente tanto, così il compagno non respirava, era bloccato a terra con le ossa rotte e alla fine se lo sono portati via, l'hanno portato all'ospedale, ora l'hanno riportato in tribunale per il processo per direttissima, perché in tutto questo è il compagno ad essere accusato di lesioni aggravate, di resistenza aggravata e di furto aggravato a quanto ho capito. Quindi come al solito in questi casi di pestaggi della polizia vediamo come le accuse vengono ribaltate dalla polizia e le persone brutalmente pestate e quasi ammazzate diventano nella loro narrazione gli aggressori, vengono processati in tribunale per questo. Ora il compagno rischia anche delle misure cautelari, adesso vedremo l'esito del processo che si sta svolgendo in questo momento. Pochi minuti fa è arrivato una nota del sindaco, sì, Matteo Lepore, che dice: fare chiarezza immediatamente su quanto è successo questa notte nel Parco Don Bosco ai danni di un manifestante, circolano ricostruzioni gravi che se confermate sarebbero inaccettabili. Però insomma è un clima pesante quello che si respira attorno a questa vertenza. Sì, diciamo che il sindaco Lepore è lo stesso che fa mistificazione di quello che succede, accusando i manifestanti di violenza e continuando a ignorare ostentatamente la violenza messa in atto dalla sua polizia e dai suoi sgomberi, perché anche quello che è successo l'altro giorno al Parco Don Bosco, al tentativo di sgombero, è di una gravità veramente allarmante. C'è stato fatto un dispiegamento di forze di polizia allucinante, reparti mobili chiamati da Padova addirittura per tentare di tagliare un parco. L'esito è stato di diversi feriti tra i manifestanti, le cariche sono state violentissime, tant'è che si è arrivati a spaccare un braccio a un signore di più di 70 anni per tagliare degli alberi. Io non so se il sindaco si rende conto dell'assurdità di quello che sta legittimando, cioè dei suoi cittadini messi veramente in grave pericolo dalla sua polizia, dalla polizia mandata da lui per far eseguire i suoi piani, di cui non ha voluto nemmeno discutere con i cittadini residenti interessati dai progetti sull'area.